La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 6 di maggio, sono 16.31 primi, 23 secondi in diretta a Oscar Giannino dagli studi di Milano. Vi ringrazio per l'ascolto, sia che siate lì ad ascoltare, sia che siate in podcast, come so che molti scrivete di fare, io vi ringrazio doppiamente. E vi dico subito di che cosa parliamo oggi, per se volete potete chiamarci 800 24 00 24, l'opinione al 349 238 6666, con gli sms. Torniamo sul tema, per capirlo un po' meglio, sollevato ieri con grandi code polemiche, come sempre, come quasi sempre quando parla lui. Il presidente dell'INPS ieri ha sollevato ancora una volta la questione dei vitalizi dei parlamentari, o meglio, correggiamo subito così qualche parlamentare in ascolto altrimenti insorge immediatamente, dei vitalizi pre-riforma del 2012, la riforma del 2012 delle Camere, la Camera dei Deputati e il Senato sono arrivati sotto l'incalzare delle proteste pubbliche che erano per anni e anni esplose contro il trattamento preferenziale dei vitalizi parlamentari, e pur tuttavia quelli ancora precedenti al 2012, cioè la legislatura attuale, hanno un peso terribile, e il giudizio che ha dato il presidente dell'INPS è chiaro, netto: sono insostenibili. Perché se adattassimo ai vitalizi parlamentari le stesse regole che valgono per tutti gli altri cittadini, ha detto il presidente dell'INPS, risparmieremo il 40%, cioè risparmieremo 760 milioni in 10 anni. Idem dicasi, vale in realtà per gli ex vitalizi dei consiglieri regionali. Naturalmente questo tema è stato respinto dalla politica immediatamente, due note di Camera e Senato hanno ricordato che questo vale per il passato ma non vale per il futuro, piripipipipipi. Allora tenteremo di capire, oltre che come la pensate voi, se ha ragione Boeri e bisognerebbe intervenire oppure no, anche di capire in concreto come funzionano, come funziona questa questione in termini comparati rispetto appunto ai comuni cittadini, rispetto ai quali il presidente dell'INPS, secondo me ha ragione, io dico solo questo, ha invocato l'eguale trattamento, perché non si capisce perché, anche se è durata per decenni il privilegio di deputati e senatori e quello dei consiglieri regionali, non bisogna comunque adattare gli stessi criteri. Ecco, per capirlo abbiamo due ospiti. Voglio solo dirvi che tra le novità più significative della giornata, anche se non ci occupiamo di questo, è la novità che viene da Londra, perché è praticamente non ancora terminato il conteggio elettorale per le elezioni del nuovo sindaco dopo Boris Johnson, conservatore, che è diventato un leader dell'uscita della Gran Bretagna nel prossimo referendum del 23 di giugno contro David Cameron, il premier conservatore che invece è favorevole a far rimanere il Regno Unito nell'Unione Europea, ma è ufficiale praticamente, visto il suo vantaggio, che la vittoria andrà al candidato dei laburisti. E la novità non è tanto questa: i laburisti hanno sostanzialmente portato a casa una grande sconfitta in queste elezioni amministrative britanniche, perché hanno perso brutalmente la loro rappresentanza in Scozia, dove si è confermato il grandissimo vantaggio preminente dello Scottish National Party, cioè gli indipendentisti. Hanno tenuto molto meglio delle attese conservatori in Scozia, loro hanno perso, hanno tenuto invece meglio nel resto della Gran Bretagna, ma hanno soprattutto vinto a Londra. Ma la vera novità è che appunto a Londra il sindaco laburista è un musulmano per la prima volta, è un musulmano figlio di seconda generazione, padre era pakistano, lui si chiama Sadiq Khan, viene dal basso, famiglia povera, il padre era un autista, di basso reddito, il padre era un autista, la mamma sarta, lui ha studiato e si è fatto dal basso. Grandi polemiche c'erano in campagna elettorale, i conservatori gli hanno posto un candidato ebreo, e quindi era una contesa molto singolare per essere la metropoli che è Londra tra un musulmano e un ebreo, ma le grandi polemiche su chi lo accusava, Sadiq Khan, di avere avuto simpatie con islamismo radicale, perché lui è un avvocato, si è occupato di diritti umani, in realtà sono state respinte dall'elettorato. Lui ha subito detto: io combatterò in prima fila contro il radicalismo e ogni forma di terrorismo, ma è una novità di carattere mondiale questa elezione a Londra, perché immaginate solo se una cosa simile sarebbe oggi possibile in Germania o in Francia o in Italia. Secondo me è anche una caratteristica della grandezza cosmopolita di Londra, che non ha paura di scegliere questo genere. Vedremo poi che cosa avverrà, ma volevo segnalare perché a mio giudizio è la novità più importante della giornata dal punto di vista del significato che ha, con tutto che poi bisognerà vedere appunto questo Sadiq come si comporterà. Però i cittadini di Londra non hanno avuto paura, per così dire, hanno creduto a quello che ha detto, e cioè che è un musulmano che lavora per l'integrazione, sì, contro ogni pregiudizio, contro ogni preminenza confessionale, e purtuttavia hanno fatto una scelta che nel resto del mondo occidentale oggi mi sembrerebbe altamente improbabile, per così dire. Allora, torniamo invece al tema della giornata con nostri ospiti. E io ho scelto tra i diversi giornalisti che hanno scritto Diodato Pirone del Messaggero, che ringrazio di essere con noi. Grazie, buonasera a tutti. E Andrea Cecconi, deputato del Movimento 5 Stelle, perché mi interessa in particolare capire e farvi spiegare come i 5 Stelle pensano che si debba o non si debba intervenire e in che modo su questa questione. Grazie quindi anche a Cecconi. Grazie a voi, buonasera. Allora, Diodato, vogliamo spiegare un secondo, perché alla luce di quello che leggono sui giornali oggi i nostri ascoltatori, secondo me molti restano con un punto interrogativo. Ma come? Camera e Senato immediatamente rispondono a Tito Boeri dicendo che è tutto a posto, c'è stata la riforma è col contributivo. Ma di che cosa sta parlando Tito Boeri? Perché attacca la politica Tito Boeri? E secondo me molti non hanno capito. Vogliamo rispiegarla questa faccenda? Sì, in sintesi le cose stanno in questi termini. Fino al 1 gennaio del 2012 i deputati e i senatori avevano diritto ad un vitalizio. Dal 1 gennaio 2012 invece il loro sistema previdenziale è cambiato pro rata, cioè da quel momento in poi, non per la fase precedente, ed è sostanzialmente al momento le loro pensioni vengono calcolate, sia pure con qualche leggero favoritismo, vengono calcolate col sistema contributivo, così come accade a tutti gli altri italiani iscritti all'INPS. Quindi il problema che ha posto ieri Boeri riguarda i 2600 ex parlamentari e loro familiari, perché hanno diritto alla reversibilità, il vitalizio è reversibile, il che è già un po' strano di per sé, che fino al 2012 appunto hanno potuto usufruire del vecchio sistema di calcolo e delle vecchie regole, che erano assolutamente, per certi aspetti, incredibili. Ci sono dei casi di ex deputati che sono stati appunto deputati o senatori per un giorno, per una settimana, per un mese, che hanno diritto al vitalizio che oscilla fra i 2.000 e i 4.000 euro netti al mese, perché venivano considerati deputati per l'intera legislatura o per gran parte della legislatura, che invece poi non hanno fatto. Questi casi sono isolati, ce ne sono parecchie decine, così come, devo dire, ieri è stato intellettualmente onesto Boeri, ci sono, se non ricordo male, 115 casi di deputati che hanno versato più contributi di quanto possono prendere, diciamo, ottengono come ritorno sotto forma di pensione. Evidentemente si tratta di deputati che di lungo corso, che hanno fatto molte legislature, ma appunto si tratta di 115 contro 2600. A parte che sul numero ieri l'associazione parlamentare ha detto no, veramente Boeri non sa neanche il numero, perché lui dice che sono 2600, mentre i vitalizi in pagamento, ha detto l'associazione parlamentare, sarebbero 3389. Vabbè, ma comunque, a netto di questo, a me preme sottolineare, però ti prego di correggermi se sbaglio, che In realtà il trattamento privilegiato di cui stiamo parlando, poi modificato la riforma 2012, non è assimilabile alle vecchie pensioni retributive dei cittadini qualunque prima, perché aveva dei multipli A rispetto ai versamenti, B, quindi non era legato alle ultime retribuzioni della pensione retributiva secondo i diversi moltiplicatori delle diverse gestioni, perché poi di questo parleremo. Quindi era un vitalizio non retributivo ma iperagevolato e con criteri di attribuzione sia per la durata complessiva del mandato che per l'età che si poteva, da cui si poteva incassarlo, che erano totalmente lunari rispetto al trattamento precedente dei cittadini, quello retributivo, cioè precedente ai 18 anni di contributi versati alla riforma Dini a metà degli anni 90, e a mio giudizio, ma voglio sentire la tua opinione, comunque anche la riforma del 2012 dell'assegno per i parlamentari, anche in quel caso non è perfettamente ricalcante, cioè non è uguale al trattamento che dalla riforma Fornero in avanti hanno avuto i cittadini per il contributivo pro rata, perché restano anche dal 2012, quindi alla legislazione vigente, dei criteri di godimento che sono naturalmente completamente diversi da quelli degli italiani comuni. E così non è così? Sì, sì, è così, hai ragione. Intanto se ne può usufruire dai 65 anni, mentre invece, come sappiamo, l'età pensionabile degli italiani continua a crescere. Adesso credo che sia 66 anni e 7 mesi. E 7 mesi, sì. Adesso poi vedremo se nella legge di stabilità vince la Camusso, che vuole mandare tutti in pensione di nuovo a 62 anni. Ma resta il caso. Esatto, che, appunto, ma poi anche nel sistema di calcolo. Ma aspetta, perché quei 65 anni, come sai, si abbassano fino a 60 per ogni anno di durata. Fino a 60, ecco. Se hai fatto una legislatura intera. Quindi diciamo, ci sono una serie di meccanismi che sono tuttora favorevoli. Diciamo che rispetto alla situazione precedente è molto meno favorevole, e la cosa è stata giustificata per il fatto che il deputato generalmente, nella gran maggioranza dei casi, diciamo, resta deputato per un numero di anni relativamente modesto. Comunque, come tu sai, ci sono, se non sbaglio, 5 disegni di legge, tra i quali uno anche dei 5 Stelle, che appunto prevedono di intervenire su questo meccanismo. Se non ricordo male, ce n'è anche uno in particolare di Ricchetti del PD che invece prevede proprio il passaggio al calcolo identico a quello del PD. Esatto. Però detto tutto questo, il conto dei 760 milioni in 10 anni di risparmi, se si adottasse il criterio suggerito da Boeri, sopra i 3.500 euro, facciamo un ricalcolo, eccetera, eccetera, rendiamolo analogo a quello di tutti i cittadini. Nella realtà, la cosa su cui i vecchi parlamentari, la loro associazione, potrebbero avere ragione, è il fatto che se si fa così per questo particolare istituto, bisognerebbe rifarlo per tutte le precedenti gestioni previdenziali retributive che erano molto agevolate, su cui io do atto a Tito Boeri di aver strappato il velo dell'ipocrisia, perché l'operazione Porte Aperte fatta sul sito dell'INPS, chiunque può andare a vedere i diversi fondi su cui l'INPS è sotto presidente Boeri, è stato spiegato chiaramente quale agevolazioni erano date ad alcune categorie che negli anni, nella Prima Repubblica, avevano strappato condizioni molto molto molto agevolate per fondi che poi sono trovati tutti a confluire con l'INPS, ma con regole tra loro molto diverse. Sei d'accordo su questo? Assolutamente, la tua analisi è perfetta, anzi io vorrei invitare gli ascoltatori a perdere, quando hanno tempo, qualche minuto per andare sul sito dell'INPS e cliccare su Porte Aperte. Lì c'è un elenco di orrori previdenziali italiani, perché diciamo la verità, sulle pensioni tutte le categorie italiane, compresi i lavoratori dipendenti, hanno fatto in modo, come dire, hanno avuto un atteggiamento di rapina, purtroppo è questo il termine giusto. Quando dici tutti mi metti nei guai con gli ascoltatori, ma tu oggi hai fatto degli esempi, torniamoci sopra. Io ho fatto 3 esempi perché ieri, proprio banali, ho fatto l'esempio del clero. Il clero versa 1 euro e mediamente le pensioni dei parroci, dei vescovi, corrispondono a 3 euro, quindi siamo in perdita secca. O faccio l'esempio di una categoria molto diffusa, i commercianti. I commercianti l'anno scorso, nel 2015, hanno ricevuto come pensioni 1 miliardo e 300 milioni di euro in più di quanto hanno versato. Guardate che 1 miliardo e 300 milioni è una cifra notevole. Non so, ma faccio l'esempio dei manager, che come dire, dovrebbe essere una categoria abituata al calcolo e quindi anche come dire, alle compatibilità. Bene, il 20% delle pensioni ex INPDAI, se fossero ricalcolate col sistema contributivo, dovrebbero scendere di botto del 40%. Quindi segno che tutte le categorie, non voglio parlare delle pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti, che come sappiamo sono state una croce, diciamo, per 20 anni, per l'INPS. È un segno che la previdenza interpretata dalle corporazioni in Italia è diventato un campo di battaglia sul quale tutti hanno preso quello che potevano prendere. Allora, la mia opinione, posso sbagliare, è che la politica non farà il ricalcolo per queste gestioni, diciamo, speciali degli italiani qualunque, di molte categorie del lavoro. Tra gli altri ci sono gli ex elettrici, gli ex post telegrafonici e così via, che avevano dei moltiplicatori molto più elevati. Detto tutto questo, e a questo punto i politici ovviamente otterranno di non rifare il calcolo come propone Boeri. Questi sono i dati sono questi qua. E Diodato Pirone oggi ha fatto conto anche di quello che si risparmierebbe in 10 anni, l'ho detto, dai vitalizi dei parlamentari 760 milioni se dessimo retta a Boeri, ma quelli delle regioni è ancora molto di più, è vero? Sì, sulle regioni siamo su circa quasi 1500 milioni, quindi 1,5 miliardi. 1,5 miliardi, se sommate 1,5 miliardi più 750 milioni sono 2,2 miliardi, che non è esattamente poca roba. Ovviamente, questi sono i dati, adesso un minuto di informazione stradale e poi sentiamo che cosa ne pensano i 5 Stelle. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, abbiamo riepilogato i dati con Diodato Pirone del Messaggero, su cui è intervenuto ieri per l'ennesima volta il presidente dell'INPS Tito Boeri, dicendo vitalizi ai parlamentari insostenibili, perché con il contributivo applicato a tutti gli altri cittadini con la riforma Dini e poi con l'intervento di accelerazione e di estensione della riforma Fornero risparmieremo il 40% dei soldi che paghiamo. Quei soldi, dicono i parlamentari, non sono pagati dall'INPS. Sì, ho capito, fanno parte dei fondi in autodichia attribuiti dal Tesoro a Camera e Senato. L'autodichia io l'abolirei, questo fatto che Camera e Senato non fanno i loro bilanci, non ne danno conto alla Corte dei Conti e decidono quello che vogliono, le loro retribuzioni e pensioni, e tuttavia quei soldi escono dalle nostre tasche, perché il MEF li prende dai contribuenti, quelli che gira come ovvio a Camera e Senato. Ci sono alcune proposte di singoli parlamentari, anche di maggioranza, che però non impegnano la linea dei loro partiti, come quella di Richetti, che ha ricordato prima Diodato Pironi del PD. C'è Zanetti e Scelta Civica, che su questo hanno una proposta depositata. Ma a me interessava vedere un po' l'opposizione, e poi vediamo se resterà opposizione nel tempo, capire quindi attraverso Andrea Cecconi, parlamentare dei 5 Stelle, come la pensano? La vostra proposta che dice rispetto alle proposte di Boeri, Cecconi? Ma guardi, noi negli anni abbiamo tentato più di una volta di abolire completamente la questione dei vitalizi. Ci abbiamo provato in legge di stabilità, ci abbiamo provato durante la riforma costituzionale, nel tentativo di chiedere semplicemente che nella Camera, nell'INPS, devono in qualche modo premurarsi dei contributi che i deputati o i senatori devono versare, ma i cittadini con le loro tasse ti danno uno stipendio, dopodiché io con questo stipendio vado nella mia cassa previdenziale di appartenenza a versare i contributi che mi spettano. Io sono un infermiere e verso l'ex Indap, il commerciante che è diventato deputato, verso nella sua cassa previdenziale e via dicendo. Il disoccupato, lo studente, fa la sua pensione previdenziale. Così avremo levato di torno qualsiasi discussione in merito. Tutte queste richieste nel tempo ci sono state bocciate. Oggi ci ritroviamo in commissione con delle proposte di legge e una proposta di Boeri, che di fatto alcune di queste, per esempio quella di Richetti che avete nominato più di una volta, vanno in una direzione che per noi si può anche valutare accettabile, cioè dire la gestione non è più separata dalla Camera del Senato della Repubblica, i contributi vengono versati all'INPS che ne fa un calcolo veramente contributivo come tutti i cittadini italiani, e quando sarà il momento di andare in pensione ti verrà dato quello che hai versato. Secondo l'età di tutti i cittadini italiani, non esatto, perché la mala parata che si sta facendo in questi giorni da parte della Camera dei Deputati e anche dagli ex parlamentari o di alcuni deputati e senatori in carica è quella di dire che nel 2012 si sono sistemate tutte le cose, quando invece noi stiamo mentendo ai cittadini, perché io ho 32 anni e so già che andrò in pensione, cioè ricomincerò a ricevere il vitalizio a 65 anni. Ma fra 33 anni è molto probabile che l'età pensionabile sarà di 70-72 anni. Già. Quindi perché io, come cittadino italiano, che ho fatto 5 anni o 10 anni il deputato, devo avere il privilegio di andare in pensione 7 o 8 anni prima rispetto al normale cittadino? E l'altra mala parata è dire che il sistema è un sistema contributivo come quello degli altri cittadini italiani, quando non è così. Già. Nel senso che è vero che si è molto limitato rispetto al passato, si è molto ridotta, diciamo, la forbice che c'era tra i cittadini e i parlamentari, però non è un sistema contributivo il nostro. Prenderemo di più di quello che versiamo quando andremo in pensione o quando riceveremo il vitalizio. Ecco, no, a me piace molto dirlo chiaro, come lo dite voi, perché altrimenti i cittadini dicono, vabbè, fuffa di una polemica che non ha senso, c'è già stata la riforma. No, cari ascoltatori, la riforma ha abolito, come diceva Diodato Pirone, e conferma, il parlamentare Cecconi 5 Stelle, ha abolito dei privilegi brutali, ma resta distinta ancora e con privilegi rispetto al contributivo pro rata o contributivo integrale, come calcolato per tutti noi. E allora io sono dell'idea che chi dice chiaramente, come vi ha detto Cecconi, noi ci proponiamo di rendere la cosa uguale a tutti i cittadini, pensateci voi, cari ascoltatori, magari siete convinti che i parlamentari bisogna invece trattarli in maniera diversa. Io penso proprio di no. Ecco, sentiamo rapidamente come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori. Stefano da Reggio Emilia. Stefano, prego. Buongiorno Giannino, sì. L'ascolto sempre. Grazie. Niente, diciamo che c'è poco da dire, l'ha già detto lei prima, cioè questi signori si sono decisi gli stipendi, di conseguenza anche i contributi, in un mercato che l'hanno regolato loro a loro piacimento. Ma di che cosa stiamo parlando? Quindi, cioè, secondo Stefano, ha ragione Tito Boeri. Sentiamo Giorgio da Torino. Giorgio. Ma io intanto le faccio i complimenti, l'ascolto sempre. Io ho fatto tutta la vita sindacalista proprio a Torino. Ho fatto segretario della UIL, parlo anche come pubblicista, ma sì, adesso sono in pensione, quindi non ho nessun vantaggio come hanno avuto invece molti sindacalisti, quindi il dover cambiare radicalmente molte cose riguarda un po' tutte le categorie. Sono lieto che lei lo dica, perché i cari ascoltatori possono andare in operazione porte aperte, perché è stata fatta anche per alcuni tipi di sindacalisti che, insomma, con contributi figurativi negli ultimi anni, prima di beccarsi la pensione retributiva, hanno portato a casa delle pensioni pazzesche. Non voglio fare di nuovo i nomi, Bonanni e altri, così via. Chiusa parentesi, ci dica. Sinceramente, e volevo solo dirle questo: guardi che anche la categoria dei giornalisti, verissimo, di cui io in parte faccio un po' parte, è una categoria che ha bisogno di una riforma radicale, perché per quanto la riguarda bisogna attingere dall'INPS per coprire il deficit, le spese che ci sono. Bravissimo, quindi... guardi Giorgio, bravissimo, e si attinge, oltre che della fiscalità generale, dal fondo speciale dei parasubordinati, capite? Cioè dai quelli che stanno peggio sul mercato del lavoro, cioè è una roba che è intollerabile. Io ringrazio Diodato Pirone, il Messaggero, Andrea Cecconi, deputato dei 5 Stelle. Fatevi la vostra idea, cari ascoltatori, la mia avete capito qual è. E appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva, insieme a me, caro Alberto Canemale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli.